ecco. Ciribiribin, domani è festa, ciribiribin, cantiamo ancora. Ciribiribin, le la malciappa, ciribiribin, le becchenda. Ciribiribin, domani è festa, ciribiribin, cantiamo ancora. Ciribiribin, le la malciappa, ciribiribin, le becchenda. Basta, basta, basta. Quello è tuo. Vui a presentarvi il mio compare Shirinei Canton e un Chocamagalù. Ma che chiaro che le mani. Sento perché sono venuto qua, compare. Va via. Perché mi rimane sono stufo di vederti contare solo così qua. Come così? Solo così ti sentivo contare uno, lo devo l'altro. Chi altro che lo stia qua? Te puso? Sì. Aspetta che vediamo se sono buono di cantare il buso ancora. Là. Sita ste step ben a volontà. Ma allora com'è che è stata la storia? Sol bugie? Sì. Ora contati una verità allora. Sicuro, grazie, sono venuto qua per quella. Allora vai. Mi visi uno quando le venisse in Italia e aveva una idea di venire qua in Brasile e sta il primo mulinaro che venisse qua. Tuo nonno? Mi bisnonno. Bisnonno, primo mulinaro del Brasile. Sicuro, le venisse qua. E' ancora vivo? Bisnono? Solo per domandarti. Ah, boh. Quasi che te ne eravate qua. Ascascà. Ah. Che il gaffato da rente, te sai che il mulin di sti anni in drio, te sai che a roda va così, mia vera? Sì, aspetta lì. A ciappare l'acqua non del signor, canale. Ti ha detto, a roda va così. Ti tasi che il mulin era di menone e mi apparo a roda come fui me. Ben, ecco allora. Ecco. E allora, a roda la va così. Sì. E non ho fatto cosa. E ha montato su un canale con le tole per arrivare fin che a roda per parare il mulino e mazzinarlo, mi è vero. Quanti metri? A un 10, 15 metri. L'acqua del canale? Dia, lisa, e il rodon fa fumo. No, fumo niente. Fa polenta, paura. E ho visto ancora far fumo dentro un mulino. Ben, ecco, polenta allora. Ecco. Vai. Assa sta. Passa il bisnono, viene il nono e ancora il mulino. Ancora là. E dopo viene il mi. Chi te si fiol detto nono? Sicuro. Viene il bisnono, viene il nono, e il pupà. E il pupà è a casa. Eccolo là. Ecco, asa star, che te sai che quando che si esce, vero? Si ciappa a fionda e si va a cassare. Sicuro? E là in mezzo al matto, te sei mi drio per star su, in mezzo mola intera. Guarda, ho detto, sarà che ho per stare insieme a qualcosa me da mola qua? Una buassa di una vacca? No! No! Spusia mia! No! Era solo fragmenti di tole, ciò. Tutti mezzo smarse. Ah sì? Intera. E de là un tocchettino, ciò, salta un mestierte a me testa, ho detto, le un colombo. No, la schitada del colombo! Saria meglio se fosse. Era o che? Allora mi occupavo a fionda. Sì. Ciò guardo in su così, te credi mia. No. Un temporale. No. Ascia star, no. Una nuvolona. Una brantanassa di acqua. No. Ma signor, guarda in su, ho visto un mestiere. Cosa? Che l'è ancora là per vedere. Sì. Te sai che il nono ha fatto le tole per andare col canale. Sì. Il bisnono. Le tole le sega smarsio e l'acqua ciò la passia slisa via per sora, ma solo che c'era un rametin secco che caschia a gossa sotto. Non stammi a dirmi? Le è vera! Che l'acqua di tanti anni che c'era accostumata a passare dal canale smarsio e tole cascate zo, e l'acqua andava la sola? La slisia! È vera, Credevo, Valtri! Resto neanche rosso per parlare che lavoro qua di verità che c'è. Compare. Che è lo? Mi ten conto un atti. Questa è vera. Vediamo se è vera, Quando che il mio bisnono le venisse da Italia. Tuo bisnono? Sì. Dei bastimenti del navio, sulla nave, dei migranti. E se ga a portadrio, la nona. Beh, fa dire. Anche a me lo so. E la nona la gavea un piccinin, che l'era il mio bisnono. Tataranono, bisnono, e che ha portato una musetta che non era cosa di darghe di mangiare la ciuccia della nonna. Sì! La musetta ciuccia da nonna, la gas levata. Buona quando delate, arrivai qua del Brasile, sapevi che le musse le dura 4500 anni avanti Gesù Cristo. E c'ho la sta musetta c'era via sta grande, mansa il me non è quel che mi ha insegnato a parlare in italiano. Sicuro? Un giorno lui era scapolo ancora. E già passata in cima la musetta la per settembre, così epoca dei tagliar rabuti, salta in cima sta musa col suo ronconetto andato in colonia. Ah sì? Arriva lassù, mola la musa magnaro iessa e lui col ronconetto usate a piera che è una meraviglia. Ciampete, ciampete, ciampete, un rabutin qua, l'edine scianta. E già per una farina secca col ronconetto e ciampete. Cavesse fuori il ronconetto dell'occio, quel che aveva il ciodetto, e il roncone che andava sempre, e l'enda su, e che come sa, e roncone. Pareva un sventolone. Un sventolone. Pareva un aeroscopio. E te quella la musa se ha spaurata la camagnia, levanta sua testa, te sei nianca, te credi nianca. Giusto la musa la era a te, il posto sbagliato, te ora sbagliata, e il roncone che gattaia via la testa secca, patatan a testa da musa intera. Morta musa. Che è morta dove? Ma come? È stata impalancata là, piantata là la musa. Come stia musa? La cosita è spalancata. Proprio vera la musa, E la testa intera. E il nonno fatto che? Suito desguelto, il gausato pariva. Nene! E mi, che c'era di fare il tema, ho detto, voto che nonno? Portami su la cola tenax! Cola tenax? Yeah. E mi chiappa la pasta, guarda sì, butta libri per tutti i cantoni. Govisca il nonno l'era cattivo. Che cola tenax? Sono andato fuori. Nonno! E mia sorella che mangia fuori tutta la cola tenax! Lui ha detto, brutto stupido! Chiappa farina bianca con l'acqua! E mi suppariva, impastando la farina bianca con l'acqua, impastando con i stivaletti su per la riva, la lingua fuori un metro e mezzo, e suppariva così, come dire, il nonno le deve morire, e il nonno le deve morire. Quando sono arrivato là, e il nonno era l'acqua, testa da mussa sotto il braccio, e la mussa di una banda spalancata. Gaccia pasta con la tenax, sta cola no, sta pasta no, sì. Fatta di farina e acqua, ga piantassima la testa da mussa, ga impiantassima il collo da mussa, che impiantò in cima la testa così che dice nene, conta fini diese e mi diese 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ecco muovi a musa andata tutta in fiera in qua in ga colà la testa della musa sono di udirtelo colà la testa della musa colà la testa da musa come fosse vero che sono qua con sta pasta di farina bianca e acqua ah sì sì. Che cola che te che ha? Ma da sa star... Gatto mia formula ti che la cola... A sa star che ti conto a meglio. E il nonno, maledetta prescia! Che ha fatto che? Che mi ha incolato la testa da musa in su cosita. La mula là, con la testa in su. Ah sì? Con la lingua fuori. E l'è vera? Io ci metto il riversai, ma il corazon che il batea. Per l'amor di Dio. E mi te dico un'altra ti che? La musa la sei ancora viva che? Sì no credo mia sì ancora viva sì ma pia una musa ancora viva mangiando con la testa in su cosita sento cosa che mangia a sei delicata ancora per sora ah, sì? La mangia un rabuttin qua un altro rabuttin la via sol rabuttini freschi delicata che mai. Ma pia, mangiare ancora sì. Con la testa in su vai perché i rabuti te sei. E bever acqua, fela come? Beve acqua l'ante il tuo canale.